Ad alta voce, Tommaso Ragno legge Frankenstein di Mary Shelley. Traduzione di Luca Lamberti. Passò qualche tempo prima che prendessi la storia dei miei amici. Era una storia che non poteva mancare di imprimersi profondamente nel mio animo, ricca com'era di circostanze interessanti e meravigliose per uno come me, assolutamente privo di esperienza. Si chiamava De Lassé, discendeva da una buona famiglia di Francia e in quel paese era vissuto per molti anni in agiatezza, rispettato dai superiori e amato dai suoi pari. Suo figlio era stato allevato al servizio della patria e Agatha era alla pari delle dame di rango più elevato. Pochi mesi prima del mio arrivo vivevano in una città grande e opulenta chiamata Parigi. Erano circondati da amici e godevano di tutti quei vantaggi che virtù, intelligenza o raffinatezza accompagnati da una discreta fortuna possono dare. Causa della loro rovina era stato il padre di Safi, costui, un mercante turco che da molti anni abitava a Parigi, per una ragione che non sono riuscito a capire, era diventato inviso al governo, arrestato e buttato in prigione. Proprio il giorno in cui Safi arrivava da Costantinopoli per unirsi a lui, era stato sottoposto a processo e condannato a morte. L'ingiustizia della sentenza era più che patente. Tutta Parigi ne era indignata. Si diceva che non tanto il crimine imputato gli fosse stato causa della sua condanna, quanto la sua religione e la sua ricchezza. Felix aveva per caso assistito al processo. Il suo orrore e la sua indignazione furono senza limiti quando seppe della sentenza. Subito fece voto solenne di liberare l'infelice, poi si diede a cercare i mezzi per raggiungere tale scopo. Dopo molti e vani tentativi di essere ammesso alla prigione, scoprì su un lato non sorvegliato dell'edificio una finestra dalle sbarre possenti che dava luce alla cella dello sciagurato musulmano che attendeva, incatenato e disperato, l'esecuzione. Di notte, Felix ispezionò l'inferriata e fece conoscere al prigioniero le sue intenzioni. Il turco, stupito e folle di gioia, cercò di incoraggiare lo zelo del suo salvatore con promesse di ricompensa e di ricchezza. Felix respinse sprezzantemente tali offerte, ma quando vide la bella Safi, cui era stato concesso di visitare il padre e che a gesti gli aveva manifestato la propria profonda gratitudine, il giovane non poté fare a meno di pensare che il prigioniero possedeva un tesoro con il quale avrebbe potuto ricompensarlo appieno delle sue fatiche e dei suoi rischi. Il turco si accorse presto dell'impressione che la figlia aveva fatto sul cuore di Felix e cercò di trarlo ancora più dalla sua parte, promettendogli la mano della fanciulla non appena fosse stato portato in luogo sicuro. Felix era troppo corretto per accettare una simile offerta. Eppure considerava la possibilità di tale evento come la più alta felicità. Nei giorni seguenti, mentre procedevano i preparativi per la fuga del mercante, lo zelo di Felix venne centuplicato da alcune lettere indirizzategli da quella bellissima fanciulla che aveva trovato il mezzo di esprimere i propri pensieri nella lingua dell'innamorato, con l'aiuto di un vecchio domestico del padre che conosceva il francese. Ringraziandolo nei termini più ardenti per i servigi che intendeva rendere al suo genitore, si lamentava anche velatamente del proprio destino. Ho copie di queste lettere, perché durante il mio soggiorno nel nascondiglio ebbi modo di procurarmi di che scrivere, e le lettere erano spesso nelle mani di Felix o di Agatha. Prima che ci separiamo, te le darò. Verranno a dimostrarti la verità del mio racconto. Ma già il sole volge al tramonto e mi resta solo il tempo di riassumertele. Safì diceva di essere figlia di un'araba cristiana, catturata e fatta schiava dai turchi, ma la sua bellezza aveva conquistato il cuore del padre di Safì, che l'aveva sposata. La fanciulla parlava in termini di altissimo entusiasmo della madre, la quale, nata libera, sprezzava lo stato di sottomissione cui era stata ridotta. Ella istruì la figlia nei dogmi della propria religione, le insegnò ad aspirare ai poteri più alti dell'intelletto e a un'indipendenza di spirito vietata alle seguaci di Maometto. La donna morì, ma le sue lezioni rimasero impresse indelebilmente nell'animo di Safì, la quale rifuggiva all'idea di tornare in Asia per essere rinchiusa fra le mura di un harem, dove le sarebbe stato permesso solo di occuparsi di passatempi puerili che mal si sarebbero adattati al suo spirito oramai abituato a grandi concetti e alla nobile conquista della virtù. Le appariva meravigliosa la prospettiva di sposare un cristiano e di restare in un paese dove alle donne era concesso di occupare un posto nella società. Venne fissato il giorno dell'esecuzione del turco, ma la notte precedente egli lasciò la prigione e prima del mattino era già lontano parecchi chilometri da Parigi. Felix si era procurato passaporti intestati al nome del padre, della sorella e suo. Aveva messo al corrente il genitore del proprio piano, e questi aveva favorito lo stratagemma allontanandosi da casa con il pretesto di un viaggio e nascondendosi insieme alla figlia in un oscuro rione di Parigi. Felix guidò i fuggitivi attraverso la Francia fino a Lione, poi per il Mont Cenisio a Livorno, dove il mercante decise di attendere l'occasione favorevole per trasferirsi in qualcuno dei domini turchi. Safi stabilì di restare con il padre fino al momento della sua partenza, poiché il turco aveva rinnovato la promessa che ella si unisse al suo salvatore. Felix rimase con loro in attesa dell'adempimento di questa promessa, godendo intanto della compagnia dell'araba, che gli dimostrava l'affetto più semplice e più tenero. Conversavano tra loro per mezzo di un interprete e qualche volta aiutandosi con gli sguardi. E Safi gli cantava le arie divine del suo paese natio. Il turco permise che si stabilisse questa intimità e incoraggiò le speranze dei giovani innamorati, mentre in cuor suo aveva formulato altri piani. Gli ripugnava l'idea che la figlia si unisse a un cristiano, ma temeva la collera di Felix se si fosse mostrato esitante, perché sapeva di essere ancora in balia del suo salvatore, che avrebbe potuto consegnarlo alle autorità dello Stato italiano, dove essi abitavano. Ideò migliaia di sotterfugi per prolungare l'inganno fino a quando fosse stato necessario e portare in segreto sua figlia con sé quando fosse partito. I suoi progetti furono grandemente facilitati dalle notizie che arrivavano da Parigi. Il governo francese, su tutte le furie per la fuga della sua vittima, nulla aveva risparmiato per individuare e punire il colpevole. In breve, il complotto di Felix venne scoperto, ed Elassé e Agata vennero gettati in prigione. La notizia giunse a Felix, destandolo dal suo sogno di felicità. Suo padre vecchio e cieco, la sua buona sorella, giacevano in una sudicia cella, mentre egli godeva dell'aria libera e della compagnia di colei che amava. Questo pensiero lo mise alla tortura. Si accordò subito con il turco perché, se costui avesse avuto una favorevole occasione di fuggire prima del suo ritorno in Italia, Safi si fermasse come pensionante in un convento a Livorno. Poi, lasciata la bella araba, si precipitò a Parigi e si consegnò alla vendetta della legge, sperando di ridare in tal modo la libertà a De Lassé e ad Agata. Ma fallì il suo scopo. Rimasero in prigione 5 mesi prima che avesse luogo il processo. Poi la sentenza li privò dei loro beni e li condannò a perpetuo esilio dal loro paese natale. Trovarono un miserabile asilo nella casetta in Germania, dove li incontrai. Felix seppe presto che il turco infedele, per colpa del quale soffriva di sciagure indicibili assieme alla sua famiglia, era venuto meno a ogni sentimento di bontà e di onore, non appena gli era giunta la notizia che il suo salvatore era stato ridotto alla povertà e all'impotenza, e aveva lasciato l'Italia assieme alla figlia, inviando come ultimo insulto a Felix una misera somma in denaro per aiutarlo a suo dire nei suoi piani per il futuro sostentamento. Tali erano gli eventi che straziavano il cuore di Felix e che, quando lo avevo visto, lo rendevano il più triste della sua famiglia. Avrebbe potuto sopportare la povertà e se ne era gloriato, perché le sue ristrettezze erano frutto delle sue virtù. Ma l'ingratitudine del turco e la perdita della sua diletta Safi erano troppo amare e irreparabili. L'arrivo dell'araba infusse nuova vita alla sua anima. Quando giunse a Livorno la notizia che Felix aveva perduto ricchezza e rango, il mercante ordinò alla figlia di non pensare più al suo innamorato, ma di prepararsi a tornare con lui al paese natio. La generosa indole di Safi si indignò a quell'ordine, cercò di protestare con il padre, ma questi si allontanò, furibondo, rinnovando la sua tirannica imposizione. Pochi giorni dopo il turco entrò nella camera della figlia e le disse frettolosamente di avere ragione di credere che la sua presenza a Livorno fosse stata scoperta e che presto sarebbe stato consegnato al governo francese. Di conseguenza aveva noleggiato una nave che lo portasse a Costantinopoli, verso cui avrebbe fatto vela di lì a poche ore. Era sua intenzione affidare la figlia a un domestico di fiducia. Lo avrebbe poi seguito con più comodo con la maggior parte delle loro ricchezze, non ancora giunte a Livorno. Rimasta sola, Safi decise il piano di condotta che le sarebbe convenuto seguire in una simile emergenza. Le ripugnava stabilirsi in Turchia, la sua religione, i suoi sentimenti vi si opponevano. Da alcune carte del padre venne a sapere dell'esilio dell'innamorato e il nome del luogo in cui ora risiedeva. Esitò qualche tempo, ma alla fine si decise. Con qualche gioiello che le apparteneva e una piccola somma di denaro lasciò l'Italia, accompagnata da una ragazza di Livorno che comprendeva la lingua turca, e si diresse alla volta della Germania. Arrivò sana e salva a una città che distava circa un centinaio di chilometri dal rifugio di De Lassé, quando la sua accompagnatrice cadde gravemente ammalata. Safi la curò con l'affetto più devoto, ma la povera ragazza morì e l'araba rimase sola, senza conoscere la lingua del paese e assolutamente all'oscuro delle abitudini del mondo. Ma era capitata in buone mani. Prima di morire, l'italiana aveva fatto il nome del luogo al quale erano dirette e dopo la sua morte la donna in casa della quale si erano fermate si preoccupò che Safi arrivasse sana e salva alla casetta del suo innamorato.